Mefisto. Io lo ripeto, non per forza dobbiamo sceglierne uno. A Caglia. Potrebbe essere interessante, ma sono incerta. Beowulf. Secondo me vi state facendo molte paranoie. Scegliamone uno e basta. Lupo Alberto. Per me dobbiamo proseguire sul sentiero di destra. È l'unico interessante dei due. Solo chi attraversa questo sentiero può ritenersi un vero lupo. Mefisto. La tua vanagloria mi spinge sempre di più a proseguire da solo. Lupo Alberto. Solo chi affronta il nemico può camminare a testa alta. Mefisto. Vai, continua. Vuoi l'osso come il miglior lupo della foresta? Stanno a sentire, Alberto. Quelli sicuramente non ti ammazzerebbero. E siccome sono sadici e democratici, ti chiudono in una gabbia per addomesticarti, per renderti più docile. Lupo Alberto. Ma c'è il capo di quel villaggio di cacciatori che ha sempre dichiarato di essere contro le gabbie di addomesticamento per gli animali. Mefisto. È capo di quel villaggio. Quello che diceva prima non conta, e quello che diceva prima già non contava allora, perché l'ha sempre pensata in modo completamente diverso da noi. Lupo Alberto. Ma tu pensa, e se mai ci catturassero, potremmo fare un po' di pressione in modo che o ci libera o rivela davanti a tutti che ha sempre mentito. Mefisto, parli sul serio? Lupo Alberto. Certo che parlo seriamente. Mefisto. E tu? Quello tutto di un pezzo? Quello che voleva sbranare cacciatori e i loro capovillaggi perché ci avevano trasformato la foresta in un luogo colmo di pericoli, trappole ed altre schifezze del genere? E tu? Ora vuoi fare pressione sul capovillaggio? Chi verrebbe smentito? Tu o lui? Lupo Alberto. So benissimo che non è proprio quello che ho mostrato di essere fino ad oggi, ma potrebbe essere interessante per il futuro. Mefisto. Interessante una sega. A Caglia. Ma quanto rompi, Mefisto? È sempre a dire così non va e nell'altro modo nemmeno. Ed è fastidioso, specialmente quando lo dici davanti a tutti gli altri animali, rendendoci, ecco, ridicoli. Mefisto. Ma tu non la pensavi come me un tempo? Cosa c'è che non va ora? A Caglia. C'è sempre che sei polemico. Devi sempre trovare qualcosa o qualcuno da azzannare. Mefisto. A Caglia, se uno pesta una merda, è inutile nasconderlo perché si sente tanfo. Una merda la può pestare chiunque, specialmente quando frequenti ambienti con bestie diverse, dopo che eri abituato a frequentare solo la tua tana. Non tutti caghiamo sul ciglio dei sentieri o sotto gli alberi. C'è chi la fa al centro del sentiero, chi la fa dall'alto, chi la fa tra i rovi, chi la fa nell'acqua. Ammettere di aver pestato una merda non significa perdita della dignità. Non ammetterlo vuol dire perdita di credibilità. Quando io dico davanti a tutti che hai pestato una merda, non è per offenderti, ma non è per renderti ridicolo, ma per creare un dibattito su come evitare che la ripesti di nuovo. A Caglia. Ma ti rendi conto che a volte sarebbe meglio se ne parlassi solo col diretto interessato? Mefisto. Ah, giusto, hai ragione. Io parlo nell'orecchio all'interessato e questo invece continua i suoi bei discorsi con l'avallo dei lupi perbenisti, facendo finire nella merda anche gli altri. Interessante questo punto di vista, Caglia, ma non mi appartiene questo spirito di fratelli e sorelle che si coprono a vicenda quando dicono o fanno stronzate. A Caglia. Beh, allora fai ciò che vuoi. Beowulf. Ma che ti importa di dire che qualcuno ha pestato una merda? Fai finta di non sapere, fai finta di nulla. Lupo Alberto. Ma anche se tizio sta pestando una merda e inizia a strusciare la zampa dentro, non ti mettere nelle orecchie a dire ma cosa fai, oppure non farlo. Io sono d'accordo con te che non si striscia la zampa nella merda, ma sarebbe corretto farlo uscire con la zampa dalla merda prima di dire la propria. Mefisto. Non funziono con le lancette, non ho il timer sulla lingua. Sono selvatico e tale è il mio istinto. Quindi se pesti una merda te lo dico sul momento, punto. Lupo Alberto. Fai come vuoi, ma sappi che così facendo resti solo. Mefisto. Da solo guardo meglio dove metto le zampe. Invece camminando nel mezzo di un branco potrebbe capitarmi una merda sotto la zampa all'improvviso. Beowulf. Ragazzi, nel frattempo che litigate, io me ne vado in quella grotta a pensare dove andare. Lupo Alberto. Io e i miei percorreremo il sentiero a destra. Gli altri facessero ciò che vogliono. A Caglia. Sarei anche d'accordo con Mefisto, ma non tollero i suoi modi sinceri. Quindi preferisco percorrere il sentiero di Lupo Alberto e gli altri. E Lupo Alberto. Ah, ora hai un sentiero tutto per te, caro Mefisto. Sei sempre sicuro di non voler seguire il branco? Mefisto, il branco, il capobranco decide e tutti seguono. A volte non riesco a fare la differenza tra un branco e un pascolo. Lupo Alberto, capisco che non sei d'accordo, ma te lo ripeto, sono i tuoi modi di dire le cose che mi snervano, Acalia, appunto. Mefisto, Beowulf, sa te scegliere, o con loro o da solo nel sentiero che resta. Acalia, e tu che fai? Mefisto, io sono nato lupo, ai sentieri segnati preferisco camminare tra i rovi. Radiazione lunedì 13 aprile, abbiamo iniziato come mercoledì scorso con la fine. La fine di questo breve racconto di un branco di lupi. Un branco di lupi, una foresta, una valle. Una foresta sulle varie indecisioni. Allora, poi chi vorrà capire, capisce. Poi lo metteremo anche sotto forma di un opuscoletto sul sito. E lo metteremo anche sotto forma di mini podcast, visto che ultimamente i podcast stanno dando soddisfazioni. E allora oggi, come tutti i lunedì, avete già riconosciuto la voce perché ha letto insieme a me il racconto, oltre alla controinformazione ci sarà soprattutto la lettura di Nessuno ci salva, con cui ci si avvia alla fine. Manca veramente pochissimo e quindi invito a chi segue le letture di Radiazione su Radiazione di mandarci qualche consiglio su qualche futuro libro da leggere in radio. Il lunedì ricordatevi sempre che leggiamo romanzi e non testi anarchici, perché li conosciamo a memoria. I consigli li potete mandare sulla mail di Radiazione, radiazione@autistici.org, dove potete mandare anche news, comunicati, scritti, tutto quello che può dare una mano a Radiazione ad aggiornare il sito di Radiazione, che è radiazione.org, che è bilingue sia in lingua italiana che in lingua croata, a cui potete accedere cliccando sul banner che trovate sulla sidebar. Dal sito potete anche riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast, o scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina download. Ci trovate libri, opuscoli, cd, tutto quello che i compagni mettono a disposizione per farlo scaricare gratuitamente, e che poi sta a chi lo scarica e lo diffonde mandare qualche soldino alle casse che si interessano del sostegno ai compagni detenuti anarchici. Ovviamente sul sito potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata. Sito e radio sono ospitati dal server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre per tutto l'aiuto che ci ha dato. E questo è, abbiamo dato tutti gli indirizzi utili. Ora ci ascoltiamo un brano, è sempre un brano fatto in casa, un brano che presto si spera riuscirà a vedere la luce insieme al libro stampato, libro, racconto e musiche fatte da sottoscritto, e che verranno messe entrambi, circoleranno insieme come benefit per i compagni detenuti. Il prossimo brano è Insect. Per chi ha seguito il racconto di Na013 capisce chi sono gli Insect, e poi dopo si torna qui e si inizia subito la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Spiasecki. Yeah. Nessuno ci salva, Sergio Spiasecchi. Non facciamo nessun riassunto delle letture precedenti perché poco prima di iniziare abbiamo mandato, come di nostro consueto, la registrazione del podcast della scorsa lettura. E vi invitiamo, nel caso che vi siete persi qualche puntata precedente, qualche lettura precedente, a meglio dire, di continuare a scaricare non solo la diretta del lunedì ma anche la diretta del venerdì, in modo tale che possiate farvi idea di quanto diciamo. Ricordiamo solamente che stiamo parlando delle serate di gala di Filippo il Calvo. Quando Krivoshein seppe dal capo dell'ufficio politico che Maria Zapolska era ancora viva, si tranquillizzò alquanto e si fece subito portare ad albergo Europa. Non vedeva l'ora di dimostrare il proprio zelo al delegato Asia e annunciargli nello stesso tempo il buon esito delle sue indagini. Erano circa le 10 quando la macchina filava verso l'albergo Europa. Krivoshein si scervellava per trovare il modo di tenere nascosto al delegato quale parte egli stesso, Krivoshein, avesse avuta nell'arresto di Maria. Gli si arricciava la pelle all'idea che egli dovesse venirlo a sapere, malediceva il giorno in cui era entrato in quella dannata cartoleria, lanciò ad alta voce un paio di bestemmie, io cane, e in seguito alle quali l'autista premette l'acceleratore credendo che il comandante fosse adirato perché andava troppo adagio. Aspettatemi qui, gridò Krivoshein l'autista, saltando giù dalla macchina appena questa si fermò davanti alla scalinata dell'albergo. Corse di sopra, ma quando fu davanti alla porta di Filippo fu ripreso dal panico all'idea di dover comparire alla presenza di quell'uomo il cui sguardo sembrava frugare in tutti gli angoli più riposti della sua coscienza sporca. Bussò timidamente, sussultando alla nota voce che lo invitava ad arrancare nella stanza. Krivoshein sospirò e aprì la porta, fermandosi sulla soglia. Buongiorno, compagno delegato. O piuttosto, ecco, buonasera. Beh, Krivoshein abbozzò il più melato dei suoi sorrisi. Sono lieto di informarvi che la persona di cui vi interessate è viva e che il suo arresto fu causato da un deplorevole malinteso che del resto è già stato chiarito. Sono, sì, desolato, ma il lavoro mi assorbe in modo tale che non sempre mi è possibile controllare tutto personalmente. Ora, disse Filippo, rispondete alle mie domande. E lui disse, ricordandosi lo stile di un certo giudice istruttore di Bloch che molti anni prima l'aveva bersagliato di domande, suscitando la sua ammirazione nonostante i 6 mesi di galera che gli aveva appioppati. Filippo aggrottò le sopracciglia e aggiunse con un'aria glaciale: eccomi pronto, scodinzolò il comandante mentre la fronte gli si imperlava di sudor freddo. Per quale motivo? Sì, mi dica, è stata arrestata Maria Zapolska? Ma ve l'ho già detto. È stato un malinteso. Ah, sì. E chi è che ha dato l'ordine di perquisizione e ha spiccato il mandato di cattura? Suppongo, ecco, veramente, si ingabbuiò Krivoshein pensando allo stesso tempo, verrà a saperlo lo stesso e ciò peggiorerà la mia situazione, anzi, forse sa già tutto e si diverte con me come il gatto con il topo. Dunque, insisté Filippo che sembrava l'inquisizione personificata. Ecco, perdonate, compagno comandante, ecco, io per errore ho fatto, detto... Filippo si alzò e piantandoglisi davanti le gambe larghe, coi pugni sui fianchi, lo squadrò da capo a piedi, come se volesse prendere le sue misure, magari per un vestito, ma a Krivoshein sembrò che volesse prendergli le misure per una cassa da morto e si vide perduto. Una paura folle si impadronì di lui. Il delegato Asia lo costrinse ad abbassare gli occhi, poi si avvicinò ad Ajur, che assisteva con espressione grave alla scena. Accennando col capo verso la sua vittima, Filippo incastrò fra le due pause di silenzio una sola parola, ma terribile. Sabotaggio, aggiungendo dopo un non so se mi spiego, che inquietò il comandante, il quale si scorse un fatale pronostico di se stesso. Ajur non batté ciglio, rigido e impassibile, osservava Krivoshein. Ma chi diavolo sarà? pensava invece quest'ultimo, agitatissimo. Forse un altro delegato del comitato centrale, un altro della CECA. Rabbrividì alla parola sabotaggio, una delle più terribili nella terminologia cechista. C'era un'altra parola con la quale formava un binomio indiscutibile: fucilazione. Le ginocchia gli si piegarono, era pronto a prostarsi a terra davanti ai suoi giudici. Filippo, con le mani sprofondate nelle tasche dei pantaloni, camminava cupo su e giù per la stanza. Finalmente si fermò. È stata fatta un'accurata perquisizione nella casa della Zapolska. Non saprei, disse Krivoshine. Ah, non sapete? Per fortuna lo so io, invece. L'appartamento, prima di essere sigillato, è stato derubato. Vi ordino non solo di scarcerare immediatamente la signorina Zapolska, chiedendole le più umili scuse a nome delle autorità d'occupazione, ma dovete voi stesso accompagnare la signorina a casa sua, prendendo con voi qualche soldato perché venga rimesso tutto in ordine nell'appartamento. Da adesso avete 2 ore di tempo. Quando i miei ordini saranno eseguiti me ne informerete per telefono. Sono le 10:15. Al più tardi alle 12:15 aspetto la vostra telefonata. Il comandante si mise sull'attenti. Sarà fatto! Aspetta. Filippo passò al tu, cosa che gli accadeva spesso col comandante. Domattina alle 10 ti presenterai qui a chiedere istruzioni. E ora? Ora, fila, fila! Krivoshine batté di nuovo i tacchi e si volatizzò. Si sentiva leggero come una piuma. Mentre correva giù per le scale pensava: forse me la caverò. Ma chi è quel vigliacco che si è preso il gusto di mettermi in simili guai? Potessi saperlo. Galoppò fino alla cieca dove l'attendeva il capo dell'ufficio politico. Messo anche lui in agitazione dalla faccenda, Krivoshine si lasciò cadere su una poltrona. Amico mio, ho passato un brutto quarto d'ora, porco mondo d'un boia, ma adesso non c'è un momento da perdere. Forse, sì, possiamo ancora cavarcela. Dio la fulmini, quella strega. Deve essere stata qualche spia di Rodin a denunciarmi. Ma chi è? Beh, dai, è inutile pensarci adesso, veniamo piuttosto al dunque. Che cos'è che si può fare per rimediare? Senti qua, mi ha ordinato di liberare la donna e di mandare degli uomini per mettere in ordine la casa. Sa tutto! Persino che è stata portata via della roba. Deve essere restituita ogni cosa. Inoltre devo presentare le più umili scuse a nome della Russia sovietica e domani alle 10 di mattina affilare il rapporto da lui. Ne hai combinato delle belle, direi. Che cosa vuoi farci? Quando si è scalognati... Occupati tu della casa e che sia sistemato tutto per bene. Mi raccomando, c'era molto denaro. Non mi ricordo, del resto non so neppure se mi hanno consegnato tutto. A sentire gli agenti che hanno fatto la perquisizione non è stato portato via nulla, oltre al denaro. A ogni modo deve essere restituito fino all'ultimo centesimo. Su, sbrigati! Io vado a tirare fuori dalla stia quella vecchia gallina. 2 secondi dopo la macchina del comandante correva all'impazzata in direzione del vicolo Archivivieschi, dove Maria si trovava rinchiusa. Krivoshine entrò come un bolide nel corpo di guardia. Dov'è il carceriere? I soldati che giacevano sulle brande assonnati balzarono in piedi. In quale cella è rinchiusa questa Maria Zapolska della Malura? Il capo carceriere... come sempre, non riusciva a ricordarselo. Krivoshine andò su tutte le furie. Figlio di un cane, non hai nemmeno un elenco. Ma sì, Genosse Tavarish c'era, ma non riesco a trovarlo, l'avrà preso qualcuno. Ma non importa, tanto quella gente, un potente manrovescio, lo riduce al silenzio. Canaglia, io ti farò impiccare. Trovami subito l'elenco, altrimenti ci andrai tu alla Komarovka. Domani stesso accompagnami nelle celle, svelto. Il graduato afferrò dal tavolo una lanterna e precedette il comandante nel sotterraneo. Entrarono nella prima cella. La luce rossastra della lampada strappava all'oscurità le sagome dei prigionieri immobili. Solo alcuni si volsero con gli occhi spalancati dal terrore, pensando che fosse giunta la loro ultima ora. E qui la cittadina Zapolska? Nessuno rispose. Una donna scoppiò in un pianto isterico che poteva sembrare una risata. Allora Krivoshine illuminò ad uno i volti di tutti i detenuti. Poi passò nella cella attigua e lì, dal buio di un angolo, rispose con un filo di voce. Sono io. Questi erano The Madden Lovers con il brano Roadrunner, subito dopo la prima lettura di per oggi di Nessuno ci salva. Ora passiamo alla controinformazione, e come sempre lo facciamo con una buona notizia, questa volta arriva dal Cile. Progetto Fenice 2015, attacco ad un'impresa di sfruttamento animale per la liberazione umana, animale e della terra. Il testo è arrivato via mail e lo leggiamo, testo rivendicativo. Giorno dopo giorno, minuto in minuto, il potere si mantiene e riproduce nelle relazioni sociali di tutti quelli che accettano questo ordine basato nell'esercizio dell'autorità, il dominio e lo sfruttamento, e anche in ognuna delle istituzioni, imprese e meccanismi che permettono il suo normale sviluppo, senza dimenticare mai l'azione volontaria dei dignitari del potere e dei loro complici, impresari, politici, polizia e cittadini difensori del potere, e lo sforzo per la sottomissione per far sì che l'ordine stabilito si mantenga e funzioni. Quando si decide di affrontare l'autorità in tutte le sue forme ed espressioni, la lotta per la liberazione totale deve riguardare tutto quello che sono i diversi scenari sotto i quali il potere esegue il suo dominio. La nostra lotta non è parziale, ma intera, perché lottare per la libertà totale implica lottare anche contro lo Stato, il capitale, lo specismo, le gerarchie, la specializzazione e le varie espressioni dell'autoritarismo. E nonostante gli sforzi dello Stato cileno per eliminare le idee e pratiche di rivolta, l'attacco diretto dei gruppi di azione anarchica continua. All'alba del 7 aprile abbiamo attaccato gli uffici amministrativi dell'impresa della carne ganadera Rio Bueno S.A., interessata alla reclusione e mattanza di animali nelle sue prigioni lavorative per la commercializzazione come merce per un intenso consumo umano. Lo abbiamo fatto con un ordigno incendiario e un meccanismo di ritardo che funzionò senza problemi, danneggiando parte della facciata dell'edificio. I motivi sono chiari e tanti. Quando decidiamo di lottare per la liberazione, lo facciamo lottando in maniera integrale e totale, senza gerarchizzare le specie. Per questo non possiamo rimanere passivi davanti al meccanismo specista ed assassino che rappresenta questa impresa. Non possiamo rimanere passivi di fronte alla reclusione, isolamento e morte di centinaia di animali. La nostra lotta è antispecista perché è innanzitutto antiautoritaria, e per la nostra liberazione è quella della terra e degli animali. I simboli e le strutture del potere si trovano dappertutto ed è uno stimolo per adosare e fare il salto all'offensiva, mettendo in pratica le nostre idee e i valori di liberazione, le nostre conoscenze e il nostro ingegno nella guerra. E siccome intendiamo la lotta come un atto multiforme e non gerarchizziamo i mezzi e gli strumenti che usiamo, facciamo una chiamata alla moltiplicazione delle azioni di attacco diretto. Lo facciamo con umiltà, ma anche con la certezza che la proposta anarchica dell'attacco autonomo attraverso gruppi di individui affini organizzati in maniera orizzontale è possibile, reale e sempre attuale e necessaria. Rivendichiamo anche questa azione come parte della proposta organizzativa per l'azione della Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale, perché condividiamo gli obiettivi che questa espone: attacco anarchico autonomo, sempre in azione, libero da gerarchie e specializzazione, internazionalismo perché la prassi antiautoritaria non riconosce barriere, stati né nazione, collegandoci con altre volontà in rivolta nel mondo, e solidarietà perché non dimentichiamo i nostri compagni detenuti nelle prigioni del potere. Questa azione la poniamo all'interno del progetto Felice per dare nuovi impulsi all'azione violenta antiautoritaria in questo territorio dominato dallo Stato del Cile, come un modo per affrontare la repressione e dimostrare che l'attacco anarchico continua ad essere vivo e non si arrenderà. Attualmente il potere globale cerca di rafforzare il suo dominio, evolvendosi nel suo operare repressivo con un agire sempre più totalitario. Con le sue operazioni repressive podo l'ampia e diffusa idea di terrorismo i compagni anarchici e rivoluzionari. Ugualmente gli ambienti solidali sono colpiti per punire l'appoggio ai prigionieri ed isolare ancora di più chi si trova dietro le sbarre. Le ultime operazioni repressive in Spagna, la reclusione dei familiari dei compagni della cospirazione delle cellule di fuoco in Grecia, sono un esempio di tutto questo, così come lo è la recente detenzione di Enrique Guzman, amico solidale del compagno Juan Flores, a cui il potere tenta di accusare per l'attacco contro un commissariato. Anche l'accanimento mediatico si mostra come un'altra espressione della repressione statale, come si è visto nel caso di Juan Pino e Natalia Collao, accusati di aver incendiato un autobus di trasporto pubblico e che oggi hanno bisogno della nostra solidarietà. Forza e solidarietà con i compagni della cospirazione delle cellule di fuoco in Grecia e tutti i prigionieri in lotta in questo territorio. Un abbraccio a Nicola Gai, a Alfredo Cospito, a tutti gli anarchici detenuti in Italia. Saluto complice a Mario e Carlo Lopez, compagni del Messico ora in clandestinità. Solidarietà con Monica Caballero, Francisco Solare e gli anarchici detenuti in Spagna. Salute eterna per il prigioniero Mumia Bujamal, che resiste in lotta negli Stati Uniti. affetto e solidarietà a Natalie Casanova, Juan Flores, Guillermo Duran, Juan Alice Vega, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Carlos Gutierrez Chidileo, Hans Niemeyer e Tamara Solvergara, che la chiamata alle giornate di agitazione dal 10 al 20 aprile dia frutti nell'azione multiforme. Oggi è giorno di passare all'offensiva per rompere la paura e le comodità, per moltiplicare gli attacchi contro il potere. Cellula anarchica di attacco incendiario, fuoco e coscienza, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. E questa era la prima notizia di oggi per quanto riguarda la controinformazione con questo attacco avvenuto in Cile, che riprende il discorso del progetto Fenix. E quindi abbiamo iniziato bene per quanto riguarda la controinformazione, invece poi ci saranno un po' di notizie un pochino più di merda. Qui ora è primavera, dalla autunno. Ora ci ascoltiamo un brano di Yorgon Dead, Screech and Skrill, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Il comandante si avvicinò a Maria, che si alzò dal suo posto ma barcollò e cadde a terra. Krivoshan l'aiutò premurosamente ad alzarsi. «Favorite con me, cittadina! Volete darmi il braccio?» Maria si reggeva in piedi a stento. Non capiva che cosa le fosse successo. Krivoshan l'aiutò a salire la stretta scala di pietra e poi ordinò ai due soldati rivoluzionari di sollevarla di peso e di portarla fin dentro la macchina. Digrignò i denti al capocarceriere, poi, additandogli la terra come una smorfia di scherno, gridò: «Tu, se non trovi l'elenco, sei spacciato, canaglia!» Maria aspirò con delizia l'aria pura della notte. Si sentì subito sollevata, benché la debolezza non le permettesse di muovere un dito. Da più di 4 giorni era rinchiusa in quel fetido sotterraneo senza aria né cibo. Krivoshan, preoccupato nel vederla così priva di forze, diede l'ordine all'autista di raggiungere il comando a tutta velocità. «Bisognerà farle bere del cognac», pensò, e si rivolse con tono supplichevole a Maria. «Cittadina, vi presento le scuse mie e delle autorità rivoluzionarie responsabili per l'oltraggio che avete subito. È stato un fatale equivoco, credete, siamo costernati». Maria udiva le sue parole come se venissero da molto lontano. Krivoshan continuava: «Vi hanno arrestata, sappiate, per errore. Ora però siete libera. Vi condurrò io stesso a casa vostra, dove troverete tutto in ordine e vi sarà restituita ogni cosa, dalla prima all'ultima. Ci perdonerete, è vero dunque?» «Io non ho nulla contro di voi e non intendo procedere contro nessuno», rispose Maria con voce stanca. La macchina allora si fermò davanti al comando. Krivoshan pregò Maria ad aspettare e corse nel proprio appartamento. Tirò fuori dalla credenza una bottiglia di cognac e un'altra di vino, qualche scatola di sardine e del pane bianco. Mise tutto nella borsa e raggiunse di nuovo Maria, ordinando all'autista di dirigersi in via Zakarajevsk. Quando furono nel cortile dello stabile, Krivoshan si rivolse a Maria: «Vi prego di avere, signorina, ancora un minuto di pazienza». Scese dalla macchina e si avviò verso la scala. L'appartamento era già aperto. 3 agenti, gli stessi che avevano fatto irruzione nella casa pochi giorni prima, si affaccendavano a riordinare il locale, messi sotto sopra dalla perquisizione. La portinaia stava scopando il pavimento. «E allora, siamo pronti?» chiese Krivoshan. «Sì, signore». La donna raccolse la spazzatura su un vecchio giornale e la buttò nella pattumiera. Krivoshan le porse un biglietto da 100 rubli. «Voi, sì, voi, potete andare». Un po' spaurita, a dir la verità, la donna ringraziò e si affrettò a sgattaiolare giù per le scale. Rientrata nel suo alloggio, si appostò alla finestra e stette ad osservare la macchina ferma in mezzo al cortile. Suo marito era già lì, al buio, col naso ai vetri. Vi spigliarono a lungo commentando i fatti straordinari che da qualche tempo si verificavano nel loro stabile. Intanto di sopra Krivoshan si rivolgeva agli agenti: «Io, sì, vi consiglio di confessare tutto ciò che è stato portato via da questa casa. È inutile che vi ricordi che, nel caso che non lo faceste, la Komarovka esiste anche per voi». «Non abbiamo preso nulla», disse uno degli agenti. «Del resto non abbiamo trovato nulla che valesse la pena di portar via. C'erano solo delle cianfrusaglie e qualche abito vecchio». «Ah, siete sicuri?» «Beh, è affar vostro. Basta che dopo non ve ne pentiate. Il denaro, quant'è che era? Quanto assommava?» No, non lo sappiamo, l'ha preso in consegna il graduato». «Infatti», si intromise questi, «il graduato è qui in questa busta, la signora si può controllare». «Beh, allora andate!» Krivoshan fece segno al graduato. «Tu però, vieni con me». Scesero in cortile e si avvicinarono alla macchina. «Siete in grado di camminare da sola, cittadina?» «Ci proverò». «Prego!» Krivoshan aprì la portiera. Maria si sollevò a fatica e mise il piede a terra. Si sentiva male, ma dominando la spossatezza e appoggiandosi al comandante che le porgeva rispettosamente il braccio, riuscì a raggiungere il proprio alloggio. Krivoshan la fece sedere al tavolo e tirò fuori dalla borsa le provviste. Bevete un po' di cognac, cittadina. Vi rimetterà in forza. Maria trangugiò meccanicamente il bicchierino che egli le porgeva, così a digiuno com'era. L'alcol le andò subito alla testa e le sue guance si colorirono. Provò un senso di benessere in tutto il corpo. E Krivoshein le disse: cittadina, ora siete libera. Questo è il denaro che vi è stato requisito. La casa è stata messa in ordine. Vi lascio un po' di viveri, va? Perché non potreste comprare nulla a quest'ora? Volete accettarvi che non manchi nulla? No, non importa, lasciatemi sola, ve ne prego. Sono stanchissima. Subito, vi prego. Ecco, vi prego soltanto di accettare ancora una volta le nostre scuse. Auguri, signora. Auguri. Sì, sì, grazie. questi erano Black Eyes con il brano Someone Else's Finger. Ora si ritorna alla controinformazione con due brevi notizie sempre dal Cile, però questa volta rispetto a quella che abbiamo letto prima sono notizie di merda. Una riguarda Puente Alto, dove è stato arrestato un altro compagno per lo stesso caso contro Juan, Talì e Guillermo. Alle ore 13.57 del 6 aprile la polizia ha arrestato il compagno Enrique Alfonso Guzmán Amadeo, di 25 anni, nella casa della sua famiglia a Puente Alto. Questo arresto rientra nel caso contro Juan, Natalia e Guillermo dell'assalto repressivo del 18 settembre. I miserabili della Dipolcal e la Procura Sud accusano il compagno di aver agito insieme a Juan Flores nell'attacco del primo commissariato a Santiago Centro. Enrico, per essere rintracciato ed arrestato, è stato attentamente pedinato negli ultimi 25 giorni dalla polizia. Lunedì 13 aprile si saprà, e quindi oggi, con precisione di cosa esattamente è accusato. Il tribunale ha ordinato lo svolgimento del test di DNA contro il compagno in prigione. Presumibilmente la polizia aveva trovato una sigaretta in casa di Nathalie Casanova il 18 settembre che sarebbe appartenuta ad Enrique e su cui sarebbero stati trovati dei campioni genetici simili a quelli raccolti dopo l'attacco contro il commissariato. Oggi ancora non si conosce il carcere dove è detenuto il compagno, probabilmente uno tra Santiago 1 o quello di massima sicurezza, CAS. Invece l'altra notizia è di Santiago, sempre in Cile, dove sono stati arrestati altri due compagni con l'accusa di incendio ad un bus. Ci sono pure gli aggiornamenti. Alle ore 2.15 del 7 aprile 2015 il bus 2010 della Transantiago si incendia completamente nelle vicinanze della stazione centrale. Dopo pochi minuti, in una strada vicina al luogo dell'incendio, la polizia bastarda arresta i due compagni Natalia Collao, 24 anni, e Javier Pinto, 27 anni, con l'accusa di incendio al bus. Secondo le versioni della stampa e della polizia, i compagni hanno preso il bus in Alameda per poi scendere a Ecuador, angolo con Concon, qualche minuto prima che l'autobus iniziasse a bruciare. La polizia dice che i compagni sono stati riconosciuti dall'autista dello stesso bus. Del caso se ne stanno occupando i miserabili della Procura Sud, autodenominata esperta in casi di antiterrorismo, e i compagni arrestati sono passati nelle mani della polizia di investigazione, in particolare della forza di lavoro sui delitti di alta complessità della PDE. Squadrone composto da vari organismi della PDE che cerca di mettere fine ai vari attacchi contro lo Stato capitale. A passaggio davanti alle carogne dei giornalisti, sia Natalia che Javier hanno camminato degni con la testa alta contro il tumulto degli avvoltoi. Javier ha gridato ad alta voce: abbassa la società patriarcale e antropocentrica. Nel pomeriggio dovrebbero essere formalizzate le accuse, leggiamo gli aggiornamenti, quelli del 9 aprile, che Natalia è detenuta nel carcere di San Miguel, mentre Javier a Santiago 1 la procura ha chiesto ulteriore tempo come termini di indagine per formalizzare definitivamente le accuse contro i due compagni. La prossima udienza si è tenuta venerdì 10 aprile, quindi attendiamo ulteriori aggiornamenti anche sul caso di Natalia e Juan. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Captain Rain, il brano Have to Wait, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Thank you. Maria rimase sola mentre la macchina usciva rombando dal cortile ed ebbe la strana sensazione di essere tornata dall'altro mondo, oppure di essersi svegliata improvvisamente da un sonno pieno di incubi. Rimase a lungo seduta senza muoversi. D'improvviso udì la macchina che entrava nel cortile. Era la stessa che era appena partita. Non si preoccupò e neppure si turbò, sentendo che la porta si apriva dietro le sue spalle. Ajour la vide subito e la chiamò sottovoce, senza muoversi. Maria si voltò, lo riconobbe e, sorridendo come una bambina incantata da una fiaba, disse con voce trasognata: «Oh Dio, cane, Giovanni, ma come sono felice!» Egli le si avvicinò e le accarezzò i capelli. «Dimentica tutto, Maria. D'ora in avanti sarai sempre felice con me. Saremo felici insieme.» E quella notte non udirono gracchiare il corvo nera in cerca di nuove vittime da portare alla Komarovka. Quando Filippo ebbe congedato il comandante con l'ordine di scarcerare Maria e questi fu uscito, Ajour si alzò dalla poltrona e prese tra le sue mani quelle dell'amico, gliele strinse a lungo senza parlare. Grazie alla genialità e al buon cuore di Filippo, Maria era salva e tra poco avrebbe potuto vederla. Era così commosso che non sapeva con quali parole esprimere la propria gratitudine all'amico, ma Filippo lo capiva benissimo e non aveva bisogno di parole. Egli stesso era così soddisfatto di come erano andate le cose che a stento riusciva a contenersi. Avrebbe fatto delle capriole di gioia se non si fosse sentito ancora tutto preso dalla sua dignità di delegato. Parentesi, questo intendiamo contesti affini. Afferrò come sempre nei momenti di imbarazzo la bottiglia, la esaminò contro luce e fece: «Adesso però, compagno, lo berrai un goccio con me?» «E beh, volentieri, grazie», disse Ajour. «Alla salute di Maria, dunque!» Mentre attendevano la telefonata di Krivonshine, Ajour espose all'amico i suoi progetti per l'avvenire e la sua intenzione di recarsi con Maria nel Caucaso, aggiungendo di sentirsi preoccupato all'idea di affrontare un viaggio così lungo e pericoloso. «Aspetta, figlio mio», Filippo lo interruppe battendo il pugno sul tavolo. «Credo di avere un'ottima combinazione sia per voi due che per me, capisci? Stavolta ne usciamo assieme, veramente! Aspetta, anche io sono arcistufo di Minsk e mi rendo conto che esagerare non è saggio. Un bel giorno si scoprono gli altarini e allora, povero Asia!» «Gliele fanno pagare tutto in una volta, ma io sulla mia pellaccia, alla mia pellaccia ci tengo e quindi voglio svignarmela finché sono in tempo. Del resto, mi sono già divertito abbastanza. Certo che un viaggio simile oggi non è mica una bazzecola. Si tratta di attraversare tutta la Russia sovietica. Non so se mi spiego. Hai qualche idea? Stammi a sentire. Di partire siamo tutti e due d'accordo. Tu conosci le strade e io invece possiedo un'automobile con tutte le scartoffie in regola per farla viaggiare. Nelle zone rosse staremo come papi, anzi come Lenin e Trotsky in persona. Dio li abbia in gloria, cane. Domani stesso ne parlerò al mio uomo e mi farò fare tutti i papiri necessari. A una tal tremarella in corpo adesso quel Krivonshine che mi darebbe anche l'animaccia sua, altro che l'automobile.» Verso le 11 squillò il telefono. Drin. Filippo afferrò il ricevitore e con ogni sorta di smorfie ridicole fece udire la sua voce. «Sarà come dite voi, ma io voglio verificare personalmente se le cose stanno così. Va bene? Va bene, sì. Alle 10, domani? E ora mandatemi la vostra macchina, perché non voglio svegliare in rimessa a quest'ora.» Posò il ricevitore e si rivolse ad Ajour. Se aspetti solo un momento, ti accompagno in macchina da Maria. Mezz'ora più tardi, due amici si separarono nel cortile dello stabile dove abitava Maria. Filippo decise di andare in via Novokrajna, dove contava di prendersi una ragazza per la notte. Voleva sollazzarsi un po' prima di mettersi in viaggio e salutare, nel modo più degno, quella casa onorevole che a Minsk era ancora rivoluzionariamente chiamata bordello. questi erano Scarlett Remains con il brano Fear Not. Ora si ritorna alla controinformazione con due notizie. Una dall'Italia, dove a Pescara sono state ritrovate a casa di due compagni delle microspie. Leggiamo il testo dei due compagni. Qualche giorno fa, dopo aver notato alcune anomalie nella posizione di una presa elettrica dentro casa nostra, abbiamo smontato la stessa e trovato al suo interno un microfono collegato al trasformatore e un congegno con una micro sim. A quel punto abbiamo smontato anche le altre prese e ne è spuntato fuori un secondo identico, come potete vedere nelle foto allegate che poi vedete sul sito. Salutiamo calorosamente i compagni detenuti nella sezione AS2 di Ferrara e tutti coloro che dentro e fuori le galere lottano per la distruzione del dominio e di ogni autorità. Danilo e Valentina. L'altra notizia, no, inciso, non hanno neanche più la cura di mettere un po' di calcestruzzo vicino alle prese. Beh, vabbè, se metti il calcestruzzo vicino alle prese te ne accorgi ancora prima. Esattamente, per cui diciamo che sono pure migliorati loro nel cercare, poi dipende dalla città, riescono a infilare queste cazzo di microspie un po' dappertutto. Che se li infilino nel culo. Che se li infilino nel culo. Allora, l'altra notizia invece riguarda il Messico, dove c'è stata una nuova sentenza per Abraham Cortes, dove è caduta l'accusa di tentato omicidio. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la notizia che al compagno Abraham Cortes è stata data una nuova condanna per il processo che affronta dal 2 giugno 2013. Ricordiamo che Abraham è l'unica persona che continua ad essere prigioniero per i fatti di quella giornata. Abraham affrontava un'accusa di omicidio con la supposizione di aver lanciato delle molotov verso gli schieramenti di poliziotti antisommossa, oltre ad un'altra accusa per attacco alla pace pubblica in gruppo. Per queste accuse il compagno era stato condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere, ma nei giorni scorsi arriverà una nuova sentenza che sarà quella del ricorso. Invece l'ultima sentenza del compagno è quella di 5 anni e 9 mesi per il reato di attacco alla pace pubblica in gruppo, venendo meno l'accusa di tentato omicidio. Non c'è dubbio che si tratta di una buona notizia, però questo non significa che riconosciamo nella sentenza un'azione di giustizia del sistema giuridico carcerario messicano. Sappiamo perfettamente che questo sistema non ci darà mai giustizia. Se adesso mollano un po' con la presa, non dimentichiamo che il compagno continua ad essere prigioniero e intanto che lui ed altre migliaia di persone che attualmente popolano le prigioni continuano ad essere dietro queste mura, continueranno a combattere per la libertà di tutti giù le mura delle prigioni. Cruz Negra Anarchista Messico. E queste erano le due brevi notizie di controinformazione, su cui non c'è da aggiungere proprio niente. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cabanette, il brano Eight Song, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Azure Maria, che in pochi giorni la felicità aveva fatto rinascere come per miracolo, imballarono le poche cose che avevano e partirono per il sud. Azure aveva lasciato l'albergo Nuova Russia, aveva traslocato da lei. Ora attendevano Filippo senza impazienza, perché il tempo adesso non sembrava loro mai lungo, perché erano insieme. Il delegato Filippo apparve verso le 2 del pomeriggio su un'enorme automobile da viaggio, e all'epoca le automobili erano davvero enormi. I miei omaggi, cara signora, ogni augurio di felicità e sinceri rallegramenti per lo scampato pericolo. So, di mia grazia, di dovere a lei la mia salvezza, e la ringrazio, Giovanni. Il mio caro Giovanni mi ha raccontato tutto, è stato veramente grande. Filippo arrossì di piacere e, per nascondere questa imperdonabile debolezza, tirò subito fuori di tasca un documento di viaggio ancora in bianco. Poteva riempirlo come voleva, sia per la destinazione quanto per il numero delle persone che intendeva far viaggiare con sé. Ho 2 gomme di scorta e benzina per 1500 chilometri. Se non basterà, ne compreremo dell'altra. Col comandante com'è andata? Ma non c'è da parlare, l'ho fatto fesso per l'ennesima e ultima volta. E che cos'è che gli hai detto? Che volevo accompagnare la signorina cittadina rivoluzionaria Maria Zapolska a Mosca, in una casa di cura per malata di nervi. Ho detto che sarei tornato fra 2 settimane e mi ha scongiurato di perdonarlo e di non dir nulla a Mosca. Ho dovuto, pensate, persino prometterglielo, per non avere qualche brutta sorpresa durante il viaggio. Ma se avessi seguito il mio desiderio, gli avrei detto gli avrei dato un sacco di legnate. Così si sarebbe ricordato di me per tutta la vita e anche della sua rivoluzione. Mangiarono qualcosa, poi fecero gli ultimi preparativi per la partenza, caricarono sulla macchina la roba da portare via e chiusero la casa. Azure si mise al volante e Filippo gli sedette accanto. Maria si adagiò comodamente sul sedile posteriore. Uscendo dal portone, Azure si fermò davanti alla portinaia e le consegnò le chiavi di casa. Per qualche tempo staremo assenti. Arrivederci. Oh, monsieur, e lo disse alla francese. Grazie e buona fortuna. La macchina munita di stelle rosse e di bandierina con falce e martello uscì in strada e si diresse verso la periferia. Lanciò un'ultima occhiata alla casa dove aveva vissuto assieme a momenti di terribile angoscia le sole ore felici della sua vita. Addio, disse, come qualche giorno prima, ma ora nella sua voce non vibrava, ma c'era concretizzata la speranza pratica di averla fatta franca. We'll be right back. E questi erano Front 242 con il brano Rhythmus Bleiben. Leggilo tu che è tedesco, vai. Im Rhythmus Bleiben. Rimanere nel ritmo. E allora, rimaniamo nel ritmo e quindi passando alla seconda informazione andiamo a leggere l'editoriale dei compagni della rivista Aversión, una rivista anarchica spagnola, che ha per titolo Solidali senza cancelletto. Editoriale. Perché la solidarietà è importante per gli anarchici? Al di là dell'apparenza si tratta di una domanda retorica, la solidarietà si basa sulla nostra concezione della lotta della vita. Questa domanda in ogni caso è stata continuamente posta nel corso della nostra storia. Il sistema dominante, fondato sulla rappresentazione e l'autorità, sull'economia e la repressione, nega la solidarietà. Il sistema democratico è nemico della solidarietà, essendo basato sulla fede in un politico, in un partito, in una campagna e sulla delega. L'autorità si basa sulla forza, sull'oppressione e di conseguenza dove c'è oppressione non può esserci solidarietà. Il capitalismo è esattamente l'opposto della solidarietà, l'inganno, il privilegio a scapito degli altri, lo sfruttamento materiale, la schiavitù. La repressione interdisce la solidarietà col bastone o con la legge. Le religioni istituzionalizzate o meno, qualsiasi esse siano, compreso il cristianesimo che usa la parola solidarietà apposta di carità, sono nemiche della solidarietà dal momento che questa non può essere solo tra uguali e nella religione non c'è relazione possibile che non passi attraverso la mediazione di un dio, del prete, di qualsivoglia chiesa. La solidarietà si manifesta nella vita non mediata, ma soprattutto nel corso della lotta e nello scontro con chi la nega. Le dimostrazioni di sostegno a tutti i livelli a seguito dell'arresto di 11 compagni di dicembre scorso ci hanno posto la domanda in maniera diversa. Poiché la solidarietà è fondamentale nelle nostre pratiche, essendo la migliore arma che abbiamo, come hanno espresso le manifestazioni di Barcellona, poiché la solidarietà non è una semplice parola scritta, come più o meno hanno dimostrato gli anarchici che sono evasi dal carcere di Punta Carretas a Montevideo il 18 marzo del 1931 con l'aiuto di altri compagni e compagne che per oltre un anno e mezzo hanno lavorato alla costruzione di un cunicolo per liberarli, può solo essere una solidarietà complice. La reazione agli arresti da parte di tantissime persone è stata positiva. Questo significa che chi è sceso in strada, chi ha raccolto soldi per le spese necessarie ai tanti compagni arrestati in carcere, chi ha manifestato il proprio sostegno al di là delle accuse, ha compreso che la solidarietà è più di un'adesione virtuale. Come mai non c'è stata una risposta analoga quando sono stati arrestati altri compagni e compagne nelle operazioni repressive del 2013? Ciascuno avrà i suoi motivi, però in certi casi non c'è scusa che tenga. La solidarietà con gli anarchici non può aspettare chiarimenti, direttive, gruppi di sostegno e quant'altro. Siamo rassegnati, tara mentale generata dall'invadente sinistra, al fatto che che da un arresto nasca un gruppo di addetti ai lavori che si adopera per trasformare una campagna in parecchi casi asettica e vittimista pur di ottenere la liberazione dei detenuti. È necessario seguire sempre lo stesso schema? Non si possono cercare di fare le cose in modo diverso? Alcuni pensano che rifiutare lo schema di una campagna di sinistra significa condannarsi al fallimento, alla mancanza di solidarietà. Tuttavia, nei casi in questione, in particolare nei fatti repressivi del novembre 2013, c'è stata una mancanza di solidarietà fin dal primo momento. Ma cercare di fare le cose in modo diverso significa tentare di avanzare sulla strada della lotta e a volte della repressione, e ciò che da alcuni può essere considerato un fallimento, sempre in senso matematico, altri possono ritenerlo un successo, un senso critico di approccio, di rifiuto degli schemi e un rafforzamento, se vogliamo, etico. L'effetto cancelletto. I telefoni intelligenti ci offrono l'opportunità di capire come la vita normale modella la mente della gente comune. La tecnologia digitale che usiamo quotidianamente modella il processo sensoriale nella mente a un livello che ci ha sbalorditi. Questo è una prefazione tratta da un articolo su uno studio dell'Università del Politecnico Federale di Zurigo, Svizzera, sull'effetto di dispositivi tattili sulla nostra mente. Lo slogan anche io sono anarchico è stato ribadito a più riprese. Due di queste situazioni da poco ci hanno indotto a qualche riflessione. La prima è relativa alla lotta nel quartiere di Gamonal a Burgos a gennaio e nel novembre del 2014, dove questo slogan è stato lanciato da alcuni abitanti in risposta ai tentativi del sindaco di dividere, di far scontrare e separare per l'ennesima volta le persone del quartiere. La seconda era in seguito all'arresto delle persone accusate nell'ambito dell'operazione Pandora, quando questa parola d'ordine ha cominciato a rimbalzare di cellulare in cellulare, preceduta da un cancelletto, anche io sono anarchico, vuoi dire qualcosa? Allora, nel primo caso si trattava di una risposta puntuale e forte contro la violenza dello Stato da parte di coloro che non credono più agli stratagemmi di quest'ultimo, frutto del lavoro collettivo tra compagni e vicini di Gamonal. Nel secondo caso è solo un hashtag in più, un'etichetta formata da una parola, una sigla, una frase preceduta dal carattere cancelletto e utilizzata su internet, nello specifico sul social network Twitter. L'effetto cancelletto è la possibilità di fare propria un'etichetta dotata di un certo peso, qual esso sia, cosa che ci consente di dare un'opinione senza pronunciare una parola, senza immischiarsi, senza una riflessione approfondita. Basta riprodurre quell'etichetta a ritmo nevrotico delle nostre vite in un ascensore, nel traffico, in metropolitana, fra una classe e l'altra, perfino mentre si sta cagando, come pure il mondo virtuale in generale ci dà l'opportunità di comunicare o diffondere su campo qualsiasi riflessione, opinione, foto, stronzata, poco importa cosa viene detto. Viva il fantastico mondo della tecnologia! Quando eravamo piccoli giocavamo spesso così, prendevamo una parola di due sillabe e la ripetevamo più volte fino a quando cambiava significato. Ciò che allora mi stupiva non era che bronca, rabbia, si trasformasse in cabron, carogna, ma fino a che punto le due parole venissero svuotate del loro significato come per magia, diventando solo un suono. È così che la famosa "io también soy anarquista", ripetuta tante volte, può certo crescere e diffondersi nel tempo, ma in relazione al mezzo utilizzato e della situazione a cui viene lanciata, può acquisire un senso e una presaglia o sgretolarsi e ridursi a un semplice slogan, ad una parola vuota. Non daremo lo stesso valore al "soffro perché sono radicale" di Vanzetti di fronte alla pena di morte e fruttamente "anche io sono anarchico" preceduto da cancelletto, trasmesso anonimamente su Twitter. La solidarietà è accettabile, ma non bisogna dimenticare che è proprio ripetendo una cosa e decontestualizzandola che si banalizza il suo valore, il suo peso. Definirsi anarchici in un momento in cui questo viene messo in discussione è certo apprezzabile, ma è assurdo farlo senza sentirlo, senza crederci e senza capirlo, per di più attraverso uno strumento mediatico che non implica nessun coinvolgimento reale. Quindi non è sorprendente che anche dei politici o dei giornalisti, con la passione della nuova tecnologia, annunciano con fierezza la loro facile solidarietà da smartphone, la frase cancelletto "io también soy anarquista". Nessuno di loro avrebbe avuto l'audacia di riprendere così facilmente questa etichetta sul proprio GPS dotato di parola e di scritto quando Francisco e Monica sono stati arrestati, perché, o di affermare come alcuni solidali di un volantino, "siamo tutti Matteo Morral", e in tal caso questa frase si sarebbe diffusa con altrettanta rapidità fino a diventare un trending topic, un argomento alla moda. Lo spazio che ognuno di noi dà alla tecnologia nella propria vita denota una scelta personale, ma è responsabile di tutti che chi dice basta all'avanzata frenetica di quest'ultima, quantomeno non venga escluso dall'informazione nei momenti importanti. Se alcuni amano passare il loro tempo scrivendo su Twitter massime filosofiche o maledicendo i politici, che lo facciano, personalmente non li seguirò. Ma al di là dell'invito ad una riflessione personale su fino a che punto vogliamo continuare a dare spazio a questa corsa sfrenata e consumistica del controllo totalitario, pensiamo che sia di vitale importanza mantenere gli antichi strumenti di comunicazione tra di noi. Aversion numero 13, marzo 2015. E questo era l'editoriale della rivista Aversion, rivista anarchica spagnola, che abbiamo ritenuto importante pubblicare. Con questa notizia finisce qui la diretta d'azione odierna, mandando se una volta, diciamo, maniera semplicistica si diceva non fidatevi dei media. Noi non diciamo più non fidatevi dei media perché questo ci sembra assodato, ma questi madonna, puttana la madonna di social media, e basta, è su, di persona ci dobbiamo vedere. Quindi se capita qualcosa a radiazione non scrivete cancelletto siamo tutti radiazione. Non lo vogliamo assolutamente. Allora, appuntamento a venerdì prossimo, venerdì 17 aprile, con la diretta d'azione in cui ci sarà solo controinformazione, rifrazioni, provocazioni e musica. Invece per l'appuntamento con la lettura è rimandato a lunedì prossimo. Con la data, vi saluto, la data ora la vediamo sul calendario, è lunedì 20 aprile. That's fancy. Ormai c'è il sole, non sono più i lunedì, eh no, ormai fa caldo, piovosi e grigi, quindi si spera che tutto vada per il che tutto vada per il meglio. Con questo è tutto, il jingle e l'appuntamento a venerdì. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.